fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, buonasera di nuovo, buonasera a tutti, bentornati su Risto Radio Convento, la web radio del convento di Donato del Garda. Bentornate anche a loro, come vedete, se o meglio, se si seguirete o se ci state seguendo dalla nostra webcam. Abbiamo popolato la nostra radio con un gruppo di belle ragazze, ma soprattutto una grande protagonista di questa nottata che ha questa... non so se sei... hai qualche fede calcistica, segui, non segui, non ti interessa nulla. Sono interista. Ecco, interista, allora hai messo la maglia giusta, perché questa maglia a righe bianco-nere, che fanno un po' zebra, un po' arbitro, perché ci sono anche gli arbitri. È un po' sì, dici, ma anche un po' commesso di footlocker, che è sempre un grande classico. Non è niente di tutto questo, perché è una festeggiata, come dicevo, questa sera. La conosciamo, come ti chiami? Jessica, benvenuta, da dove vieni? Da Sarezzo. Sarezzo, benissimo. E dici un po' cosa festeggi stasera? Festeggio il mio addio nubilato con le mie amiche, con le mie ragazze. Ah, te le sposi tutte? Cioè il tuo addio nubilato con le tue amiche? Sì. Tutte te le sposi, chi era prima? Certo. Bello, è un nubilato multiplo quindi. Sì, capota, sì, bello questo. Ha fatto una sequenza di, come dire, di brescianità una dietro l'altra, cioè capota, sì, tipo fuochi d'artificio, bene. Allora, da chi partirai? Senti. Hai detto che ti sposerai con le tue amiche, allora, da chi parti? Catwoman, che è lei. Lei per prima, fortunata, sei onorata di essere la prima a essere sposata. Poi super onorata. Con Sabrinano. Beh, già mi fa capire, hanno tutti soprannomi molto dolci da quanto vedo, quindi c'è proprio dell'amore, del sentimento, traspare dalle vostre parole. Lei è la Cassie. Cassie, ok. E la Jessica Calannimacchio non ha niente, però... Non ha niente. Però è la Jessica. Insomma, puoi anche andartene se vuoi, non servi a nulla, non servi a nulla. No, nel senso che non ha un soprannome. Ah, ok, detto, non ha niente, sembrava che... Ah, non ha un soprannome, ok. E poi c'è la Fabi. Basta, già parla di per sé, parla di... E tu che soprannome hai? Sono io, ecco. Tu sei io, ok. Non hai un soprannome nemmeno tu. Però, cioè, io sono già io. Tu sei già un soprannome di tuo? Sì. Bene. E sono tutte tue amiche? No, perché so che c'è... No, perché c'è... Una presenza importante, c'è una presenza importante. Cucina del capo. C'è il capo e la cugina del capo, sì. Che sembra un po', perdonami il termine francese, una mezza paraculata, come per dire, guarda, io invito il capo così, un aumentino, un aiuto per il matrimonio. No, è intransigente, sergente di ferro. Sergente di ferro. A proposito di capo, tra l'altro qui ti stanno mandando dei messaggi subliminali, ricordiamo sempre di proteggersi, che è molto importante, assolutamente sì. Beh, in realtà lui sta finanziando anche il suo matrimonio, perché con la vendita di tali oggetti lo aiutiamo a sposarsi. Quindi se ne avete bisogno. Ma poi... Però una notizia bella ce l'ho io, Madonna, una notizia bella, sentiamola. Non siamo 3, 4, 5, 6, 7. Qua siamo in 8. In 8? Chi è che ha il regalino? Il fagiolo? Più che fagiolo lì mi sembra già una brioche bella cotta, mi sembra già mezzo bombolone. Esatto, si sta trasformando in anguria, pronta per l'estate del 2019, sì, quando sarà... 7 settembre nasce il fagiolo. 7 settembre, si chiama, già soprannominato fagiolo, un altro... Per me è un fagiolo, sì. È un altro soprannome carico di significato, sì. bello. E come si chiamerà nella realtà? Non si sa, perché ancora in attesa. Va bene, lo scopriremo le prossime volte. Intanto abbiamo altre presenze che ci stanno aiutando a vivere meglio questa serata e a farci sentire più normali di quello che sembriamo essere. Questo ci fa sempre piacere. Torniamo all'argomento principe della serata, che è il tuo invito al tuo capo. Dici intanto dove lavori, perché abbiamo buttato lì l'informazione e poi l'abbiamo lasciata. Lavoro in una ditta di Gardone Valtrocchia, si chiama Mega. Bellissima, organizzatissima, sì, stupenda. Dove tutto funziona a meraviglia. Pagano un po' poco, da quanto ne so. Cioè le paghe sono un po' basse. Ed, insomma, sì, ma quello è così dappertutto, mi sa. Ah, è dappertutto. Beh, però ci sarebbe possibilità e desiderio di aumentarle un pochino. Un pochettino. E poi magari di uscire alle 5:30 d'estate, ad esempio, no? Esco proprio alle 5:30. Ah, tu esci proprio alle 5. Ma che magari? Ma alle 4? Alle 4, perché giustamente alle 4 cominciano i cartoni animati su Italia 1. E quindi bisogna essere. Anzi, 5 alle 4, perché bisogna uscire. Cioè, insomma, avere il tempo di tornare a casa e accendere il momento giusto. Perché se poi mi accendi a metà del cartone, hai perso la magia. Però sono contenta. Sei contenta, perché anche perché non potevi dire altro. L'importante che pagano. Esatto, l'importante che pagano, che è un grande senso di attaccamento all'azienda. Infatti ha vinto il premio nel 2018, il capo lo confermerà, come impiegato dell'anno, insomma come dipendente dell'anno, giusto? Per questa affermazione, l'importante è che pagano. Ne parleremo con l'altro capo. Ah, con un altro, quanti capi sono? Due, un mini capo. Il capo del capo. Ah, un mini capo lei. Capo, è un mini capo. Poi c'è un capo del capo del capo. E cosa fate di bello? Facciamo i caricatori. Di cosa? Le pistole. Beh, insomma, c'erano i caricatori dei cellulari, i caricatori di mille cose, non è che sembrava così. Caricatori delle pistole, bene, sì, bene, quindi. Siamo una ditta importante. Sì, mi fido, cioè nel senso, mi fido assolutamente. E vendete anche a privati o solo a grandi strutture, insomma? No, è a privato. Solo a privato. Ah, non a privati, ok, quindi solo a armerie, poligoni, eccetera. Interessante, il tuo lavoro nel particolare di cos'è? Dobbiamo montare questi caricatori, controllare la perfezione, che siano perfettissimi. Però lasciamo andare anche le cose orrende. Lasciate andare nel senso che le buttate via. No, nel senso che... Beh, insomma, quelli che non vanno poi li butti via, li metti da parte, perché la qualità si. Cioè, la qualità prima di tutto. Esatto, la qualità prima di tutto. Per cui i prodotti sono certificati, sono perfetti. Sono perfetti. Okay. Ok, allora, le tue amiche ce le hai già presentate, volevo capire anche un po' di più di questi soprannomi, da cosa derivano, da esperienze passate, dal nulla inventati in una sera. Sabrinano, perché è alta un metro e una banana. Ah, ok, oh, si vede che è attaccata di tutto punto, perché mi sembra più o meno pareggiata alle altre, a parte loro due che hanno 950 metri di capelli e quindi vanno oltre le altre, però sono più o meno, mi sembrano tutte uguali. Quindi. No, dopo che tuoma, non lo so, così mi è venuto. Ah, adesso, l'hai inventato adesso, tra l'altro. Ma no, è una vita che ce l'ha. Ah, una vita. Lei è sempre così. Ma sei tu l'ideatrice dei soprannomi? Certo. Non lo so, chiedo, magari erano. No, è una cosa sei mia. Tu, una cosa mia, un tuo talento. Che magari potresti mettere nelle pause durante lavoro, potresti girare e trovare soprannomi per i colleghi, anche no? Dipende, quanto mi stanno sulle palle. Vabbè, anche quelli che ti stanno sulle palle puoi trovare i soprannomi, no? No. Ah, solo chi ti sta simpatico, quindi. Sì. Cioè, quindi lei che non vale niente, non voglio pensare quale sia il tuo rapporto nei suoi confronti. È una mia grande amica. Sì. Nell'anima, però non ha soprannomi, non ce l'ho ancora trovato. Ah, non l'hai ancora trovato. Non che non ce l'ha perché non se lo merita. No, non gliel'ho ancora trovato, lo troverò. Stai lavorando. Ok, stai lavorando bene. Quello che però non abbiamo ancora ricordato a dovere è che non sono qui a festeggiare una cena aziendale, giusto? Perché cosa succede tra qualche, non so quanto, immagino poco? Due settimane, che succede? Mi sposo. Ti sposi con? Gabriele, quando? Giusto? Dici la data. Oh, 6 aprile. E vi siete conosciuti sparandovi uno con l'altro, no? No, ci hanno presentato per sbaglio, è successo qua. Per sbaglio, bello. Anche, cioè, diciamo che non solo i sentimenti d'amicizia, ma anche d'amore sono molto profondi, da quanto sembra. Vuoi fare, diceva quella che non ha niente, se vuoi fare una dichiarazione, vuoi dire qualcosa? Ma lui lo sa che io lo amo tanto. Beh, quindi 6 aprile ci troveremo all'altare e saremo marito e moglie. No, bello. Sì. Il fagiolo lì contesta qualcosa, non ho capito cosa. Il fagiolo contesta sempre. Si vedranno all'altare 6 aprile, ma fino ad allora amici. Ah, certo. Nulla di serio fino al 6 aprile. No, amici, ecco. Beh, direi che è una ragazza che sa cosa vuole, no? Di nuovo un ragazzo per il sesso protettivo. Esatto, ma è per quello che lei è rimasta colpita per quello, perché insomma le è venuto, cioè le ha ricordato momenti del passato. Bene. Qualcuno di voi vuol dire qualcosa? Vuol aggiungere qualcosa? Se vi va, se no, liberissime. Mamma mia, che lagne! Dai, su, facciamo un bel augurio. Vai. Un augurio speciale. E poi speriamo di supporti. Insomma, sento un legame forte tra di voi, questa è la cosa che conta. Insomma, ah, dici, io intanto vi auguro di arrivare amiche al 25 marzo, che già è un bel traguardo. E poi, dai, speriamo che... Ma sono tutte invitate al matrimonio? Ah, ok, no, pensavo che fosse per quello che c'era un po' di rancore, magari qualcuna non aveva ricevuto l'invito. Non pensi? Mandati tu l'invito. Ah, vi volete bene. Insomma, c'è questo odio amore conflittuale. È normale, ma è bello che sia così. È bello che sia così. Va bene, allora ti ringraziamo, se non vuoi aggiungere altro, se non hai altro da dire. Bene, ti ringraziamo. Ringraziamo tutte voi per avercela portata qui. E in bocca al lupo anche al signor capo per l'attività. E insomma, speriamo che non sbaglino i pezzi, se no ci sono dei problemi. E niente, ragazze, grazie ancora e buona festa. Buona fine serata. Ciao!